Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La Bulgaria ha un effetto negativo per il nostro premier. Un secondo editto bulgaro sancisce oggi la sua intenzione di prendersela con la Costituzione per sistemare una volta per tutte la magistratura, la quale è politicizzata e non legittimata dagli elettori. Due osservazioni che lui non leggerà, ma altri forse sì. Prima, in questo suo vedere dovunque complotti, trucchi, disonestà, slealtà, malizia, opportunismo, cattiverie, calunnie, diffamazioni contro di sé, è facile riconoscere un modo di agire classico di chi ritiene possibili tali attività. Non dico che abbia già fatto tutto quello che teme sia fatto a lui, ma già il sospettarlo lo rende sospetto. Ognuno vede la realtà attraverso i propri occhi e i suoi evidentemente sono pieni di tutte quelle malefatte che teme. Seconda osservazione. Vuole magistrati legittimati, cioè eletti dal popolo. È proprio sicuro che un magistrato eletto dal popolo, cioè dai partiti, sarà meno politicizzato di quelli che abbiamo oggi, che, almeno formalmente, dipendono solo dalla legge, d'altronde fatta dai partiti? È proprio sicuro che l'azione giudiziaria del magistrato eletto non sarà influenzata dalla desiderata rielezione? O è semplicemente tutta una manovra per poter influire più efficacemente sulle decisioni dei giudici? Non vorrei avere anch'io qualche pregiudizio negli occhi. Giuseppe. Santoro, quando parla di Berlusconi, sembra un indemoniato. Gli tremano le mani, gli traballa la testa e le telecamere non riescono a nascondere i riflessi rossi dei suoi capelli tinti. Anche lui schiavo del parrucchiere come l'odiato Berlusconi. Invita a partecipare alla sua trasmissione giornalisti stranieri che non conoscono la Costituzione italiana, i quali, inquadrati a tutto schermo, con un sottofondo di musica arabeggiante quasi catastrofistica, straparlano di divisione dei poteri, pensando alla matematica anziché alla Costituzione, affermando che Berlusconi ne ha troppo e che quindi, invece di divisione dei poteri, bisognerebbe parlare di sottrazione di poteri a Berlusconi. Bisognerebbe ricordare a Santoro e i suoi giornalisti stranieri che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario, né più né meno. Non si devono né dividere, né moltiplicare, né sottrarre. Caterina. A proposito di ammortizzatori sociali per i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, vorrei segnalare che questi consistono in una somma pari al 20% del reddito percepito nell'anno precedente e spettano alle seguenti condizioni: operare in regime di monocommittenza, aver percepito nell'anno precedente un reddito compreso fra 5.000 e 14.240 euro, aver avuto, nell'anno precedente, un accredito presso la gestione separata INPS di un numero di mensilità tra 3 e 10, avere, nell'anno in corso, l'accredito di 3 mensilità nella gestione separata. Inoltre, vi deve essere stata cessazione del rapporto. Quando si annuncia con enfasi di aver attuato misure a sostegno del reddito, non si capisce bene la ragione di restrizioni capziose che finiscono per escludere dal già magro beneficio molti collaboratori. Già che c'erano, potevano inserire tra i requisiti essere sposato con prole tra 2 e 6 anni e mezzo e coniugati con consorte il cui nonno abbia combattuto durante la campagna d'Africa dell'Alamein. Nicola, Lucca. Scrivo a proposito di un fatto che sempre più spesso si verifica in occasioni di eventi drammatici nei quali perdono la vita vittime innocenti. Mi riferisco in particolare all'uso del tricolore che viene steso sulle bare di questi poveri malcapitati. Con tutto il rispetto per le vittime innocenti, trovo però assolutamente fuori luogo l'uso della bandiera nazionale in tale circostanza. Dirò anche che mi sembra offensivo nei confronti di chi la propria vita la perde per ben altri motivi. Mi chiedo con quale diritto si associ la bandiera nazionale, che spetta certamente a coloro che perdono la vita, siano essi militari, servitori dello Stato, persone che comunque rappresentano l'Italia, il suo governo, le istituzioni, in patria o all'estero, a vittime, seppur innocenti, di disastri naturali, di turisti sfortunati e via dicendo. Ci sarà pure una regola sull'uso del tricolore, spero, e sono convinto che non sia ammesso nei casi sopracitati. Ma se così fosse, perché non si fanno rispettare le regole? A questi funerali, siano essi di Stato oppure no, presenziano anche le autorità. Perché nessuno interviene? Perché si deve sempre tollerare qualunque tipo di comportamento? Forse perché altrimenti si rischierebbe di non essere abbastanza democratici. Questo non potrebbe accadere, per esempio, in Gran Bretagna. Ho avuto l'occasione di vivere, per motivi di lavoro, alcuni anni in Inghilterra. Bene, intanto anche ai militari caduti in Iraq o in Afghanistan non si fanno funerali spettacolari, tipo eventi mediatici come da noi, anche se si usa la bandiera sulla bara. Ma mai, dico mai, si vedrà l'Union Jack sulla bara di un turista britannico morto per sfortuna in un attacco terroristico a Bali o a New York. In fondo, un po' di serietà ci vuole, altrimenti sono solo pagliacciate. Giuseppe. A proposito del parallelo che Canale 5 fa tra il premier spiato da Repubblica, che per la verità ha ripreso servizi di altre testate straniere lanciati da uno scoop di Corsera, e il giudice spiato direttamente dalle telecamere di Canale 5, vorrei osservare che un premier settantenne che si attorna di ragazze e per questo motivo viene censurato dalla moglie è sicuramente stravagante e rappresenta quindi una notizia. Un magistrato che fuma, va a passeggio per Milano, indossa dei calzini azzurri, non mi sembra una notizia, in quanto non c'è nel suo comportamento nulla di raro, originale o stravagante. Di conseguenza, nulla che sia degno di nota. La pezza, in questo caso, è peggiore del buco. Meglio tacere e chiedere scusa per la pessima figura di un emittente che finora aveva dato prova di professionalità. Marta. Egregio direttore, buongiorno. Com'è possibile che per mantenere in vita il sistema pensionistico si incentivi la permanenza sul lavoro dei lavoratori ormai prossimi alla pensione? O si tenti di allungarne l'età pensionabile e si trasformi, allo stesso tempo, in un percorso ad ostacoli l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani? Un sessantenne ha un'aspettativa di vita lavorativa molto minore rispetto a un trentenne e quindi può solo contribuire in misura estremamente ridotta al mantenimento dell'INPS con i propri contributi, non le pare? Quelle aziende che si reputano serie dovrebbero costringere i loro dipendenti più competenti a trasmettere le loro conoscenze ai giovani, a formarli, per poi, nel momento dell'abbandono per raggiunta età pensionabile, lasciare loro il posto senza traumi per la stessa azienda. Secondo me, così facendo, potrebbero lavorare tutti, mantenere in buona forma il sistema pensionistico e infine, forse, poter lavorare anche qualche anno in meno, grazie ai contributi versati dai tanti giovani entrati nel mondo del lavoro. Andrea, provincia di Modena. Caro Andrea, le sue proposte nascono sicuramente dal buon senso, ma hanno un grosso tallone d'Achille. Lei considera il mercato del lavoro come qualcosa di fisso e definito. Esce un anziano e può entrare un giovane, magari dopo un periodo di apprendistato. Ma non è così, per fortuna. Non è così, per fortuna, perché i lavoratori non sono, non devono essere delle macchine. I lavoratori sono un patrimonio di ogni azienda e solo puntando su questo patrimonio le aziende possono crescere e quindi creare nuovi posti di lavoro. Certo, l'occupazione giovanile è un elemento della massima importanza e una società che voglia essere dinamica dovrebbe mettere al primo posto la necessità di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ma vede, caro Andrea, uno degli squilibri italiani è proprio nel fatto che la spesa sociale è fortemente sbilanciata verso gli anziani e le pensioni e ha pochissime risorse per i giovani e le famiglie. Alzare l'età di pensionamento vorrebbe dire avere la possibilità di spostare risorse dai padri ai figli. Vorrebbe dire tener conto dell'allungamento positivo della speranza di vita. Vorrebbe dire aver fiducia nelle possibilità di crescita delle imprese e quindi dell'economia. Lei mi può dire che in un periodo di crisi sono le stesse imprese in difficoltà a chiedere il pensionamento anche anticipato dei lavoratori. È vero, ma non ci sono solo aziende in crisi. E pensionare chi ha meno di 60 anni, come avviene ancora in Italia, è insieme un aggravio di costi e uno spreco di risorse umane. Forse dovremmo chiederci perché gli altri paesi come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna stiano tutti adottando misure per spostare gradualmente in avanti l'età di pensionamento che già ora è a 65 anni. È una necessità anche per l'Italia. Certo, salvaguardando i casi particolari, come appunto per le aziende in difficoltà e i lavori usuranti. Eccezioni devono essere previste, ma le eccezioni non possono diventare la regola. Si parla tanto male degli immigrati, ma siamo noi stessi a offrirne il pretesto su un piatto d'argento ai nostri denigratori. Non facciamoci riempire il cervello dalle associazioni corrotte che organizzano feste tribali e religiose. Queste non fanno altro che intascare le vostre quote associative e i contributi delle regioni e vi usano solo per i loro interessi. Non vi dicono come fare per migliorare la vostra situazione e farvi rispettare. Cari miei, le case vanno curate. Ci vuole più ordine nelle vostre case. I vostri negozi sono degli accampamenti. Il bucato asciutto va rimosso e non lasciato sui balconi. Le macchine rotte vanno portate in demolizione. Frigoriferi e lavatrici in discarica. Fate riferimento alle persone giuste e non a chi vi lascia in disparte per potervi lavare il cervello e farvi credere che dobbiamo esportare cultura e religione. Non importate la poligamia e non accettate che le agenzie immobiliari vi raggruppino nei ghetti con la scusa che non possono affittare o vendere certe case agli italiani. È proprio in questo modo che si creano i ghetti e la convivenza sarà sempre più dura anche per la mancanza di ordine e di pulizia. Integrazione non significa solo lavorare. Significa anche rispettare i principi di vita civile e così sarà più facile combattere razzismo e diffidenza. Le associazioni dovrebbero avere un ruolo più responsabile e fare meno vittimismo e meno demagogia. Rispettiamoci, impariamo le regole di vita giuste ed elementari. Comportarsi bene, adattarsi alla realtà del posto è giusto, ti aiuta a crescere e a ottenere maggiore considerazione, anche da quelli che per egoismo vorrebbero emarginarti. Diffidate dai falsi moralisti politicizzati o religiosi. Cerchiamo di trarre profitto dallo scambio socio-culturale. Rispettiamoci nella diversità e mostriamo il nostro lato positivo. Non siamo qui solo per trovare lavoro, ma anche per migliorare il nostro modo di vivere. Non fuggite al confronto, dato che aiuta sempre a crescere. Il nostro passato ci deve servire di lezione e così diamo più rispetto e senso alla nostra vita. Non per essere migliori o peggiori, ma per cercare di integrarci e di fare una vita decente, degna di una persona civile. Dieng. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.